Con Lionello Cerri di Anteo Palazzo del Cinema per sapere i suoi 5 film preferiti tra quelli usciti in sala nel 2023 e fare anche alcune riflessioni sull'annata cinematografica. Ben trovato. Ciao, ciao. Come vedi il cinema rispetto anche alla fruizione della sala? Diciamo che il 23 è stato un anno importante nella ripresa per il cinema dopo la pandemia. Ci sono stati dei risultati molto importanti. Diciamo che se la media sulle presenze a livello nazionale è del 74% rispetto al 2019, che è stato l'ultimo anno più alto, insomma, negli ultimi 30 anni di cinema, il fatto che per esempio, le nostre sale hanno avuto una media dell'88%. Questo significa fatto ritornare gli spettatori, aver preso anche un pubblico giovane, under 30, che va a vedere non solo i blockbuster, ma anche un certo tipo di cinema. È stato riaccolto anche facendo vedere dei film in lingua originale, sottotitolati, quindi c'è stata una grande ripresa sia dal punto di vista della qualità che della quantità. I film che sono usciti ovviamente sono film molto importanti dal punto di vista della qualità. Chiaramente la stagione è stata importante anche a livello estivo, sia con Barbie che con Oppenheimer, ma devo dire che il grandissimo risultato c'è ancora domani della Cortellesi, porta al fatto di riacquistare, diciamo così, anche pubblico rispetto al cinema italiano. Insieme al film della Cortellesi, molti film italiani interessanti, dal film di Garrone, a 100 domeniche di Antonio Albanese, al film della Ramazzotti, fino ad arrivare anche a dei film importanti dal punto di vista internazionale che hanno portato dei bei film e anche pubblico. Viene in mente anche il film di Ken Loach piuttosto che l'uscita del film di Cloris Mann. Ci sono molti film italiani interessanti che sono usciti anche in questo periodo. Credo che la riflessione da fare è quella di capire dove da una parte il cinema di commedia, così come l'abbiamo conosciuta negli ultimi anni, faccia più fatica e il cinema di commedia, come i nostri, diciamo così, genitori ci hanno insegnato la commedia italiana, si sta riprendendo degli spazi dal punto di vista sia della qualità della scrittura che con molti attori bravi, eccetera. Anche se non è un film di commedia, ma un film di soldi, ma di adagio, ha rappresentato purtroppo, magari non tanto dal punto di vista delle presenze, ma dal punto di vista della Stefani qualità, sia Intervista. della regia e degli attori, un grandissimo risultato. Quali sono i tuoi preferiti? Te ne ho citati già alcuni, quindi non mi dilungo. Manca solo tra quelli citati anche il film di Woody Allen. Cioè, ci sono parecchi film usciti nel 23 che sicuramente sono stati molto importanti non solo dal numero delle presenze, ma anche dalla qualità del film. Ce ne saranno perlomeno una quindicina, te ne avrò citati una decina perché veramente c'è un grande momento, secondo me, di ripresa. Adesso dobbiamo pensare cosa che dovevamo già pensare nel 2019, a come affrontare il discorso del futuro, che tipo di film produrre, che tipo di film proporre al pubblico per continuare a farlo crescere. Io credo che quest'anno siano arrivate molte risposte positive rispetto al cinema in sala, come voglia di vedere dei film che hanno una struttura forte. Immagino anche Anatomia di una caduta, scritto benissimo, interpretato magnificamente, infatti ha vinto premi a livello internazionale. Questi sono i film che fanno uscire la gente di casa e fanno andare nelle sale a vedere dei film nel modo più giusto possibile sul grande schermo, con la qualità, incontrando ovviamente persone che magari non conosci ma che hanno i tuoi stessi gusti. Quindi il ruolo della sala ritorna a essere centrale, cosa che nella pandemia purtroppo abbiamo visto che questa cosa non poteva accadere. Ne tiriamo fuori cinque secchi? Secondo me sono dei grandi film, appunto C'è ancora domani, sicuramente il film di Kaurismäki, il film di Ken Loach, il film Adagio. Io non è che ho visto tutti i film, quindi il film appunto di Ken Loach, insomma, sono i film che mi hanno emozionato di più. Quindi potremmo dire C'è ancora domani, Foglie al vento, Old Oak, Adagio e Un colpo di fortuna. Sì, sicuramente mancherà qualcos'altro, perché altri film comunque mi sono piaciuti molto spesso. Per esempio precedentemente un film che mi è piaciuto moltissimo è 100 domeniche di Antonio Albanese. Però se poi andiamo più indietro, un film che mi ha emozionato tantissimo è Io capitano. Cioè è difficile racchiuderli in pochi titoli, come mi è piaciuto molto Oppenheimer e Barbie anche. Lionello, ci sentiremo nel corso dell'anno, auguri. Auguri a voi, grazie.